Paese che deve assolutamente trovare la strada della ripresa. Ieri abbiamo avuto segnali che sono segnali importanti, per adesso sono segnali macroeconomici che hanno a che vedere con i dati di alcune agenzie internazionali. Letta parla di ripresa mentre prosegue l'analisi degli emendamenti alla legge di stabilità. Sarebbe saltata l'ipotesi di una no tax area fino a 12.000 euro. Tutto questo in mezzo alle tensioni politiche, continua lo scontro nel PDL, Fitto Alfano vuole fare la festa al cavaliere e il vicepremier dice saremo al Consiglio nazionale solo se ci sono le condizioni. Torino avrebbe minacciato il PM Di Matteo, deve morire, il magistrato sarebbe stato portato in una località segreta. Dossier sull'immigrazione, gli stranieri in Italia sono oltre 5 milioni, tra tasse e contributi portano nelle casse dello Stato quasi 2 miliardi di euro. Chiude le indagini sull'ISVAP, secondo i PM l'istituto di vigilanza chiuse gli occhi su Fonsai, al presidente Giannini Ligresti avrebbe promesso la presidenza dell'antitrust intercedendo presso Berlusconi. Il quadro più costoso del mondo, battuto all'asta un trittico di Francis Bacon per oltre 140 milioni di dollari, stasera tocca al diamante più prezioso del mondo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Adesso parleremo di legge di stabilità e di politica, ma prima di tutto vi devo dare una notizia appena battuta dalle agenzie. I funzionari della Consob, insieme ai militari della Guardia di Finanza, stanno compiendo da questa mattina un'ispezione a Milano nella sede della Telecom, stando a quanto riferisce l'ANSA. L'ispezione riguarderebbe alcuni nodi degli ultimi giorni, tra questi la vendita della quota di Telecom in Telecom Argentina e l'ipotesi di emissione a breve di un bond da 1,3 miliardi di euro. Se ci saranno aggiornamenti naturalmente ve li daremo. Anche oggi però l'intreccio tra le vicende politiche e la legge di stabilità resta in primo piano. L'attesa è tutta per la riunione PDL di sabato, che dovrebbe sciogliere i nodi all'interno del partito o più probabilmente a questo punto, e a sentire le dichiarazioni, portare ad una scissione. Intorno a queste tensioni si svolge il dibattito sulla manovra in Commissione Bilancio al Senato, in un clima di stallo dovuto anche a quello che succede nel centrodestra. Dunque iniziamo proprio dal lato del provvedimento economico e iniziamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno, quali sono gli aggiornamenti? Sì, buongiorno Simone, dibattito e confronto politico sulla legge di stabilità che sicuramente sta risentendo della fragilità di questi giorni delle due principali forze di maggioranza. La Commissione Bilancio del Senato prosegue intanto i suoi lavori e questa è ancora la fase dell'ammissibilità degli emendamenti, mentre le votazioni dovrebbero iniziare solo da domani. A cadere subito però sotto il controllo della Presidenza della Commissione sono allora le proposte di modifica a firma PD-PDL per aumentare la no tax area esentando dall'IRPEF i redditi inferiori a 12.000 euro. Questi emendamenti sono stati giudicati inammissibili per difetto di copertura, ma i proponenti non si darebbero per vinti e starebbero cercando le opportune risorse. Messa da parte al momento la vicenda della vendita delle spiagge, almeno sul fronte Partito Democratico, l'attenzione torna a concentrarsi sul capitolo cuneo fiscale. Si parte da due visioni diverse tra Partito Democratico e Popolo della Libertà. Sembra che il primo punto è di intervenire sulla fiscalità sul lavoro a costo zero rispetto allo stanziamento previsto visto nella legge di stabilità. L'aumento del taglio da parte del PDL comporterebbe invece il reperimento di altri 2 miliardi di risorse. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta e ci colleghiamo per un commento a tutto questo e per avere altri dettagli con Marco Rogari, collega del Sole 24 Ore, che sta seguendo passo passo, come sempre fa, questa legge di stabilità. Marco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Che impatto sta avendo la situazione politica, già ne accennavamo in apertura, su come procede la legge di stabilità in commissione? La risposta è molto semplice, è un cammino molto molto lento, come si diceva prima si comincerà a votare non prima di domani, si sta, come posso dire, facendo un iter abbastanza lungo dell'ammissibilità degli emendamenti proprio per prendere tempo e tutti guardano nel PDL al Consiglio Nazionale del 16, senza considerare che anche il PD ha qualche tensione, come sappiamo, precongressuale, quindi finché i partiti non avranno chiara la situazione al loro interno sarà molto difficile affrontare i nodi strategici di questa legge di stabilità, che sono soprattutto la tassazione sugli immobili e il cuneo. Non a caso già si parla di affrontare questi nodi al termine del cammino in commissione, quindi non subito comunque. Oggi sul Sole 24 Ore, Marco, tu pubblichi un pezzo, un tuo servizio, nel quale si parla anche di un'ipotesi alla quale starebbe lavorando il governo, ossia l'utilizzo della Cassa Depositi e Prestiti per, come dire, facilitare il credito per le piccole e medie imprese. In cosa consiste e quanta sostanza ha questa ipotesi? Sicuramente arriverà un emendamento del governo con l'obiettivo di sostenere maggiormente le piccole e medie imprese sul versante del credito. Questo emendamento dovrebbe prevedere, come ha annunciato il Vice Ministro Fassina, un coinvolgimento più marcato della Cassa Depositi e Prestiti, ma ancora il governo non ha deciso quale opzione, cioè come coinvolgere la cassa, se sul lato dei crediti delle banche con una sorta di cartolarizzazione o con un intervento più diretto della stessa Cassa Depositi e Prestiti. Può essere che si arrivi a una sintesi tra i vari emendamenti che su questo tema sono già stati presentati da PD e PDL in Parlamento, col PDL che appunto prevede un rafforzamento del fondo di garanzia per le PMI che già esiste con il coinvolgimento diretto della Cassa Depositi, mentre il PD punta a una piattaforma più estesa con il coinvolgimento di vari soggetti, Confidi, Cassa Depositi e altri. Vedremo che cosa succederà anche da questo lato, abbiamo capito che però le cose non si risolveranno a breve. Grazie Marco Rogari intanto. E a proposito di notizie economiche che riguardano i nostri conti pubblici, il Tesoro ha assegnato tutti i 3 miliardi di euro di BTP a 3 anni, scadenza novembre 2016, con tassi in calo ai minimi da marzo 2010, sotto il 2%, all'1,79% per essere esatti come rendimento medio, e domanda in rialzo. Nella precedente asta era il rendimento al 2,25%, l'asta del mese scorso. Nel frattempo arriva notizia dalla Banca d'Italia che il debito pubblico italiano in settembre è salito ancora a 2.068,565 miliardi di euro dai 2.060 di agosto. Tensioni del PDL dunque a dominare la scena. Sentiamo come vanno le cose oggi. Si preannuncia sempre di più come resa dei conti finale. Il Consiglio nazionale del PDL è chiamato a sancire sabato prossimo il passaggio a Forza Italia. Il tempo delle ipocrisie, delle parole dolci verso Silvio Berlusconi, ma degli atti ostili nei suoi confronti deve finire, sbotta questa mattina in una nota il lealista numero uno Raffaele Fitto. Altrimenti, sottolinea rivolgendosi ad Angelino Alfano, il rischio non è che si voglia guastare la festa al presidente, ma che si voglia fargli la festa. Berlusconi non dividerà il suo partito, aveva detto il vice premier nell'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, augurandosi che il Consiglio possa essere una festa per tutti. Fitto ne ha anche per Enrico Letta. Inaccettabile, dice, la sua sequenza di dichiarazioni verso Berlusconi, sempre senza risposta dei nostri ministri. Ed è un ministro, Quagliariello, che dalle pagine dell'Unità osserva come non basti Berlusconi a tenere insieme tutti perché, dice, la leadership va affiancata ad un partito strutturato. Per evitare lo scontro, il Consiglio di sabato andrebbe annullato, azzarda un altro esponente dell'ala governativa come Cicchitto. Berlusconi intanto non sembra lasciare margini alla trattativa sulla tenuta del governo. Faccio di tutto per l'unità, ribadito ieri sera ai giovani falchi del PDL radunati da Daniela Santanchè. Ma non si può collaborare con chi vuole la mia fine. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro fronte sul quale si tenta di procedere faticosamente in vista del 3 dicembre, giorno nel quale la Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi sulla legge elettorale, appunto il sistema di voto. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, alla fine però, Simone, è ancora un nulla di fatto, perché la bocciatura della proposta del PD sulla legge elettorale a doppio turno provoca di fatto una situazione di stallo in Commissione Affari Costituzionali del Senato. L'ordine del giorno, ricordiamo, ieri è stato bocciato, ha ottenuto solo 11 voti su 27, hanno pesato le astensioni del Movimento 5 Stelle, no, di PDL e Lega. Zanda, il capogruppo PD al Senato, chiede la sospensione fino a mercoledì sugli altri due ordini del giorno, che ricordiamo sono uno della Lega e propone il ritorno al Mattarellum, l'altro dei 5 Stelle, un proporzionale con preferenze e collegi piccoli. Il tempo permetterà di chiarire all'interno del PDL la situazione e poi di far sì che il PD possa accettare il ritorno al Mattarellum come clausola di salvaguardia, ma nel PD non mancano le spaccature. Matteo Renzi propone una legge elettorale sul tipo dei sindaci, lo renderà chiaro comunque l'8 dicembre, mentre Roberto Giachetti accusa Anna Finocchiaro, Giachetti che ricordiamo ha perso 10 kg per lo sciopero della fame contro il Porcellum, accusa la senatrice PD di aver fatto partire la riforma al Senato con maggioranze esigue per i democratici, insomma, dice Giachetti, un modo per non farla partire. Nel PDL all'attacco invece Fabrizio Cicchitto che spiega, sulle riforme istituzionali ci giochiamo la tenuta del governo. Per il momento qui da Roma è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, vi ricordo tra l'altro che come sempre torneremo a parlarne intorno alle 13.42 circa, 41, ospitiamo ogni giorno una delle persone che sta facendo una staffetta dello sciopero della fame insieme a Roberto Giachetti. Comunque alla legge elettorale è dedicato oggi il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. La riforma elettorale, questo tema ormai indigesto a tutti per quanto è inconcludente il dibattito, è il primo terreno su cui si misura la capacità di leadership del giovane Renzi, il quale ha annunciato una proposta a breve, prima che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legittimità del famoso Porcellum. Ebbene, Renzi può favorire un'intesa parlamentare con questa sua proposta. E certo, non per reintrodurre il proporzionale, ma per dare all'Italia un sistema stabile in grado di garantire l'efficienza del governo. Farlo richiede però intelligenza e un minimo di flessibilità. Oppure il sindaco di Firenze può scegliere la strada della rottura, avanzando ipotesi inaccettabili per gli altri partiti. È prevedibile che si manterrà invece nel solco del realismo, perché in un sistema sfilacciato come quello in cui viviamo, questo è il momento opportuno per avere almeno una decente riforma elettorale. Grazie anche alla Corte Costituzionale non è pensabile che si perda l'ultima occasione. Veniamo alla cronaca. Dal carcere milanese di Opera, l'ex superboss della mafia Totò Riina si sarebbe sfogato con un detenuto minacciando di morte il PM Di Matteo. Di Matteo deve morire, avrebbe detto, e con lui tutti i PM della trattativa mi stanno facendo impazzire. Lo stesso Di Matteo sarebbe stato portato in una località segreta. Intanto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, lancia un allarme che riguarda addirittura il Papa. E il commento di Daniele Biacchesi. Il 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, non riesce a frenare l'impeto del capo dei capi. Totò Riina, l'uomo della vecchia mafia, protagonista della stagione delle stragi di Capaci, Via D'Amelio e di quelle del 93, condannato ad un fine pena mai, minaccia oggi il sostituto procuratore di Palermo Nino Di Matteo e sceglie, come per tradizione mafiosa, un'aula di un tribunale dove è in corso il processo sui rapporti tra Stato e criminalità. Quelli lì devono morire, fosse l'ultima cosa che faccio, ha gridato Riina ad un compagno di cella. Così sono scattate le misure di sicurezza per Di Matteo e per tutti i magistrati antimafia di Palermo. Ma le minacce a Di Matteo non sono isolate. Dopo la linea del silenzio tornano ad alzare le voci dei criminali. Il collega Lirio Abbate dell'Espresso nel mirino della malavita romana vicino al clan dei Casalesi e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, confida che pure Papa Francesco potrebbe entrare nell'obiettivo dell'andrangheta. Ma di cosa hanno paura le mafie? Dell'affermarsi in più parti del paese di una nuova stagione dell'antimafia, forse più consapevole e disincantata, composta da funzionari dello Stato fedeli, di giornalisti attenti, onesti imprenditori che rifiutano di pagare il pizzo, di un processo, come quello in corso a Palermo, che sta svelando in tutta la sua drammaticità il filo sottile che lega uomini infedeli dello Stato con i criminali. L'urlo di Riina, dunque, si scaglia proprio contro l'affermazione della cultura della legalità. Si chiude l'inchiesta a Milano sui rapporti fra l'ISVAP e Fonsai. Occhi chiusi per 8 anni in cambio di una raccomandazione. Ispezione ritardata e ostacolata in cambio dell'impegno di Salvatore Ligresti ad intercedere presso Silvio Berlusconi per fargli avere l'incarico di presidente dell'antitrust. Sono entrambi accusati di corruzione, sia l'ex numero uno dell'ISVAP Giancarlo Giannini che l'ex patron di Fonsai nell'indagine milanese sulla compagnia assicurativa appena chiusa dal PM Luigi Orsi. Giannini aveva improntato la funzione di vigilanza verso Fonsai, scrive il PM, in modo tardivo e inefficiente, e nelle 8 pagine spiega come dal 2002, momento in cui la famiglia Ligresti entra nella compagnia, solo nel 2010 sia partita un'ispezione per di più non centrata sui veri punti dolenti. D'altra parte, alle obiezioni di chi parlava di consulenze sospette per Salvatore Ligresti, lo stesso Giannini in una conversazione diceva: ha preso i soldi e quindi è reato. Insomma, per i magistrati il controllore faceva tutt'altro verso il controllato, e questo nella speranza di andare all'antitrust una volta terminato il suo incarico all'ISVAP. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è una pausa per la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo. Tra le altre cose vi aggiorneremo sulla situazione nelle Filippine, parleremo anche di musica e poi parleremo con la mamma dell'attivista di Greenpeace detenuto in Russia. Tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È in corso nella sede della Telecom a Milano un'ispezione dai funzionari della Consob e della Guardia di Finanza. Riguarda l'ispezione alcuni nodi come la vendita della quota di Telecom in Telecom Argentina e l'ipotesi di emissione di un bond da 1,3 miliardi di euro. Letta parla di ripresa mentre prosegue l'analisi degli emendamenti alla legge di stabilità. Sarebbe saltata l'ipotesi di una no tax area a 12.000 euro. E continua lo scontro nel PDL. Fitto dice: Alfano vuole fare la festa al Cavaliere. Il vice premier: saremo al Consiglio nazionale solo se ci sono le condizioni. Totorina avrebbe minacciato il PM Di Matteo, deve morire. Il magistrato sarebbe stato portato in una località segreta. E adesso vi aggiorniamo sulla situazione nelle Filippine. Sono oltre 2.200 le persone morte a causa del tifone che ha colpito le Filippine, a dichiararlo il presidente Benigno Aquino, anche se mancano ancora da contattare 29 municipalità. Vanno avanti intanto le operazioni di soccorso. Migliaia i sopravvissuti che assediano l'aeroporto di Tacloban nella speranza di abbandonare la provincia di Leyte, una delle più colpite dalla catastrofe. Una provincia in cui oggi si segnalano scontri a fuoco tra le forze dell'ordine e uomini armati. Due navi da guerra americane sono state inviate nell'arcipelago. Arrivano anche i primi aiuti italiani. Nelle prossime ore da Dubai partirà un volo umanitario con beni di prima necessità, tende, coperte, teli di plastica e medicinali per un valore di circa 100.000 euro. Le Nazioni Unite hanno invece chiesto alla comunità internazionale almeno 225 milioni di euro per soccorrere gli oltre 10 milioni di persone colpite dal tifone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla vicenda dei 30 ambientalisti di Greenpeace detenuti in Russia, che sono stati messi in quarantena fino a domani dopo essere stati trasferiti a San Pietroburgo. Erano stati arrestati il 19 settembre nell'Artico dopo aver tentato di scalare una piattaforma offshore di Gazprom. Tra queste 30 persone c'è anche l'italiano Cristian D'Alessandro e abbiamo in linea con noi la madre Raffaella Ruggero. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, ma lei è riuscita finora a contattare in qualche modo suo figlio oppure no? Noi abbiamo parlato due volte con Cristian. Una volta dopo circa 20 giorni. La conversazione è stata molto breve. E ha parlato mio marito, perché non sono mai preannunciate, sono improvvise. Poi l'ultima volta che ci ha chiamato ho parlato proprio io ed è stato ormai oggi 15 giorni, sì, è successo 15 giorni fa. Quindi sono 15 giorni sostanzialmente che non sente, sì, suo figlio. Che notizie, sì, riesce ad avere dalla signora? Quando ho parlato con Cristian non era neanche stato ipotizzato il trasferimento, quindi non ne sapevamo nulla e non ne abbiamo parlato con lui, perché il giorno dopo si è cominciato a parlare di questo trasferimento. Cristian in quella conversazione mi diceva di essere sereno, per quanto si possa essere sereni in una prigione, ma nel senso che aveva stabilito un buon rapporto con il compagno di cella, un ragazzo russo, e non aveva stati d'ansia, passa molto tempo a leggere e con questo compagno cerca di imparare di apprendere qualche parola di russo in cambio del suo insegnamento di inglese. Signora, voi avete qualche segnale su una possibile liberazione a breve, sull'inizio del processo vero e proprio, la possibilità di, come dire, di ricontattare vostro figlio con una maggiore frequenza? No, queste informazioni non ci sono state date, sono solamente voci, si parla della possibilità, specialmente adesso che sono a San Pietroburgo, di una libertà vigilata, ma non notizie ufficiali, sono voci, sono forse voci per rassicurarci, per tranquillizzarci, ma non notizie ufficiali. Richiedete, immagino, un intervento del governo. Vi sembra che il governo abbia agito in qualche modo fino adesso? Che voi sappiate, siete in contatto con la Farnesina? Allora, con la Farnesina sicuramente. Fin dai primi tempi io ho anche incontrato il ministro Bonino, che mi ha detto che il caso sarebbe stato sempre alla sua attenzione, e non ho motivo di dubitare, conoscendo la storia del ministro Bonino. Quello che forse ci è mancato è stato un appoggio, una dichiarazione. Noi ci saremmo aspettati una dichiarazione del primo ministro, che non toglie che ci possa essere un operato che noi non conosciamo. Io le dico di dichiarazioni ufficiali o di contatti ufficiali con il primo ministro non ci sono stati. Il trasferimento a San Pietroburgo vi tranquillizza o vi preoccupa ulteriormente? Guardi, come città è sicuramente più accogliente della città, che poi è una cittadina, Murmansk, e ci dicevano che già nel primo pomeriggio a Murmansk è buio, è già molto freddo, quindi logisticamente, per quanto ne possano giovare, vabbè, è chiaro, dei detenuti certo, ovviamente. Certo, per noi sarebbe più comodo andarle a trovare, forse il console ha una maggiore, che risiede appunto a San Pietroburgo, il console, il dottor Estero, ha una maggiore facilità nei suoi spostamenti, benché le visite sono contingentate, quindi o San Pietroburgo o Murmansk non è che possa avere maggiori contatti, ma sicuramente anche le sue iniziative saranno facilitate. Grazie signora per essere stata con noi, buona giornata naturalmente, buon lavoro, abbiamo voluto riportare l'attenzione su questa vicenda in questa giornata. Adesso però vogliamo parlare di immigrazione invece, perché oggi è stato presentato il dossier, un dossier annuale, il rapporto immigrazione 2013, che ci parla appunto della situazione degli immigrati, che sono oltre 5 milioni, e ci sono anche dei dati economici interessanti, perché a differenza di quello che raccontano i luoghi comuni, in realtà sono dei contributori netti per le tasse dello Stato, tanto in termini di contributi quanto in termini di tasse, per 1,8 miliardi di euro. Dunque sentiamo l'intervista di Gigi Donelli a Gian Romano Niesotto, che è stato il curatore per la Lombardia del rapporto immigrazione 2013. L'anno 73 è l'anno proprio in cui l'Italia, da paese esclusivamente di emigrazione, diventa anche paese di immigrazione, perché il tasso di entrata in Italia è più alto rispetto alle uscite. Cosa c'è ancora di nuovo? Cosa può esserci di nuovo? C'è il titolo del dossier statistico di quest'anno, che è Dalle discriminazioni ai diritti, e dunque è uno strumento che annualmente viene dato e diffuso, anzitutto perché ci sia uno sguardo il più possibile oggettivo, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista dell'analisi, di un fenomeno che si fa difficilmente capire nelle proprie dinamiche positive se lasciato unicamente all'emotività. Parliamo un momento di numeri. Quest'anno i numeri dicono che la presenza degli immigrati in Italia si assesta sui 5 milioni e 2, con un'incidenza del 7,4% rispetto alla popolazione totale dell'Italia. Questa è migrazione legale? Questa è l'immigrazione legale. Non è cresciuta di molto rispetto all'anno scorso, e però dobbiamo registrare che, nonostante la crisi occupazionale ed economica, l'immigrazione si presenta con dei caratteri caratteri comunque di crescita. E se vogliamo dire dei caratteri particolari per quanto riguarda l'immigrazione, prima di tutto è proprio questo: una stabilizzazione, diciamo, della presenza immigrata, una dimensione che sta ad indicare che si ferma in Italia, non è una migrazione passeggera, e poi un investimento maggiore per quanto riguarda la cosiddetta integrazione. Per quanto riguarda le provenienze? La maggior parte, il più del 50%, proviene effettivamente dall'Europa. Con i rumeni si assesta su 1 milione di presenze. Per quanto riguarda i non comunitari, la prima comunità proviene dal Marocco, seguita poi dall'Albania, dalla Cina, Filippine, il quarto, l'Ucraina. Dove potrebbe andare questa migrazione? In Italia, meglio. Con un'Italia che assieme all'Europa ha un tasso di invecchiamento notevole. Mentre dall'altro punto di vista i minori in Italia degli immigrati sono circa 1 milione, e quindi da questo punto di vista noi guardiamo a un'Italia delle migrazioni che ha questo nuovo volto, che va compreso e anche rispettato per quanto riguarda la questione in ballo della cittadinanza. E da questo punto di vista una recente inchiesta dell'Istat mostra che il 70% degli italiani è favorevole a una revisione dei percorsi di cittadinanza, specialmente per quanto riguarda i figli degli immigrati nati qui in Italia. Tre notizie per alleggerire questa puntata di Effetto Giorno prima di chiudere questa parte, poi ci ritroveremo dopo come sempre. Allora, la prima è la notizia, le prime due sono notizie che riguardano aste. Il trittico di Francis Bacon dal titolo Three Studies of Lucian Freud è stato battuto in un'asta di Christie's a New York per la cifra record di 142,4 milioni di dollari. È il quadro più pagato della storia. Per aggiudicarsi l'opera del 69 si sono dati battaglia molti collezionisti. Naturalmente Christie's non ha voluto rivelare il nome dell'acquirente, ma quasi sempre così. Si partiva da una cifra di 85 milioni di dollari. L'altra asta, questa sera da Sotheby's, verrà battuto il Pink Star, un diamante rosa di 59,60 carati, valore stimato oltre 60 milioni di dollari, un pezzo unico considerato dagli esperti un vero e proprio tesoro della natura. E adesso però parliamo di musica. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. Allora, chi non ha riconosciuto Bob Dylan, peste lo colga. Comunque, riceverà oggi la Legion d'Onore a Parigi. Una cerimonia si terrà, ma l'impegno non figura neanche nell'agenda della ministra della cultura, Aurélie Filippetti. La proposta di candidare Dylan all'alta onorificenza era stata al centro di una grande polemica in Francia in primavera. C'era stata l'opposizione del presidente della Grande Cancellerie, l'antica istituzione che attribuisce la medaglia. Il motivo sarebbe stato il passato di ribelle e il fatto che avesse usato droghe. Però, insomma, la Legion d'Onore se la becca lo stesso, e bene così. Una pausa, ci ritroviamo tra poco. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Notizia di poco fa, la Commissione europea ha aperto una serie di indagini e di analisi sull'Italia a proposito di debito e disoccupazione. Dice il Presidente della Commissione Barroso che il nostro Paese deve fare di più sulle riforme, ma si avvierà anche un'analisi approfondita sul surplus della Germania. L'obiettivo in questo caso è capire se Berlino possa fare di più per riequilibrare l'economia europea. Funzionari della Consob e militari della Guardia di Finanza stanno facendo un'ispezione nella sede della Telecom sotto osservazione la vendita della quota in Telecom Argentina e il bond da 1,3 miliardi. Si sono chiuse a Milano le indagini sull'ISVAP. Secondo i PM, l'istituto di vigilanza chiuse gli occhi su Fondiari Assai. Al presidente Giannini, Ligresti avrebbe promesso la presidenza dell'antitrust intercedendo presso Silvio Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio. Tensione politica nel centrodestra e manovra si intrecciano. In queste ore lo scontro nel PDL è ancora forte. Secondo Fitto, Alfano vuole fare la festa al Cavaliere. In attesa del Consiglio nazionale del partito procedono a rilento i lavori sulla legge di stabilità. In questa fase si stanno vagliando gli emendamenti. Torrina, parlando con un compagno di cella, avrebbe minacciato il PM Di Matteo. Deve morire. Il magistrato sarebbe stato portato in una località segreta. E adesso vogliamo parlare di trasparenza di bilancio nelle pubbliche amministrazioni. È un tema che piano piano, lentamente si sta facendo strada. Nei giorni scorsi sono stati assegnati gli Oscar di bilancio della pubblica amministrazione e sono stati assegnati da FERPI, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana. Abbiamo sentito, chiedendo quali sono i criteri e chi sono i premiati, naturalmente Patrizia Rutigliano, che presiede la FERPI. Grazie, buongiorno. Ci tengo però a precisare che noi promuoviamo il premio, ma di fatto poi concorrono tutta una serie di altri soggetti, tutte le associazioni chiaramente che si occupano di reportistica, ma poi Cassa Depositi, la Corte dei Conti, il gruppo Sole 24 Ore, insomma, come dire, un gruppo abbastanza strutturato sull'analisi di quello che è poi il principale strumento di rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Chi ha vinto? La Regione Basilicata per quello che riguarda le regioni a statuto ordinario, Trieste per quello che riguarda le province, Udine fra i comuni capoluogo, Merano fra i comuni non capoluogo. In particolar modo segnalo che l'Oscar di bilancio si svolge in collaborazione con l'ANCI, con la Federazione poi delle province italiane e ovviamente con la Conferenza delle Regioni. Successivamente abbiamo ampliato l'Oscar anche alle aziende sanitarie pubbliche e quindi ha vinto anche l'azienda House di Ferrara e l'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. Quali sono i criteri? Di fatto c'è stata evoluzione normativa negli ultimi 2-3 anni. I comuni, tutti quanti gli enti locali sono tenuti a dare sia una rendicontazione migliore che un obbligo di diffusione. Però che cosa abbiamo notato? Fondamentalmente che ancora tutto è redatto in una logica forse un po' troppo da addetti ai lavori. Grande sforzo soprattutto da parte delle realtà più piccole e delle aree disagiate. Grande sforzo, ma da quel che ho capito quindi i risultati non sono ancora, sono ben lontani dall'essere ottimali. No, sono ben lontani dall'essere ottimali, molto c'è da fare e una delle ragioni per le quali ci siamo rimessi un po' tutti quanti assieme quattro anni fa per cercare di lavorare su questo è proprio perché riteniamo che lo strumento del premio in sé, al di là di chi ha vinto e chi ha perso, fondamentalmente porta tutte queste realtà a mettersi a confronto. Per mettersi a confronto devono essere impeccabili, devono riuscire ad avere degli strumenti il più possibile rivolti ai cittadini. Secondo me la gente, secondo tutti noi, la gente vuole sapere perché si è speso quel determinato ammontare di euro, qual è la ragione, se sono servizi, se sono sprechi. Probabilmente andando in questa direzione si può, diciamo, ricostituire quel rapporto fiduciario che un tempo legava in maniera un po' più stretta il cittadino alla pubblica amministrazione e che vorremmo tornasse ad essere così. E noi adesso, come sempre a quest'ora, è il momento di sentire chi ha deciso di aderire a questa sorta di staffetta del digiuno, insieme a Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, che ormai da una quarantina di giorni è in sciopero della fame e ha perso 10 chili, ogni giorno c'è qualcuno che decide di fare una giornata di digiuno per protestare contro il porcellum. Chi abbiamo in linea oggi? Buongiorno, sono Agatino Grillo. Mestiere? Sono dirigente in un primario gruppo bancario italiano. E perché ha deciso per questa giornata di digiuno? Allora, io sciopero tutti i giovedì, infatti domani mi aspetta questa prova. Il motivo principale, io credo che l'attuale legge elettorale, il porcellum, è una sorta di vero e proprio cancro che si è impossessato negli ultimi anni del nostro paese, perché troncando il legame tra i cittadini e gli eletti siamo arrivati in una situazione molto degenerata e pericolosa. Io credo che i cittadini debbano riappropriarsi del loro diritto di scegliere gli eletti e a loro volta i parlamentari devono rispondere ai cittadini invece di rispondere ai segretari di partito. Credo che tutta questa situazione stia creando profonde difficoltà al nostro paese.

New York è tutto. Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Grazie dunque a Mario Platero, che ritroveremo domani. Si chiude qua Effetto Giorno. Gli altri ringraziamenti: Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in redazione, in assistenza tutta la redazione di Radio 24 come sempre, e tutti voi per l'ascolto. Se volete mi trovate su Twitter, Simone Spetia, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Proveremo ad aggiornarla di più, un po' di più. Ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.